facciamo ingresso in un quartiere comunemente chiamato i Ponti, Laurentino 38. Non è il quartiere dove sono nata, è il quartiere che ho scelto perché ho incontrato i compagni e le compagne nei cortei. Ciao a tutti, io sono Selvaggia. Sono nata e cresciuta qui a Laurentino 38, esattamente nel 94. Da 3 anni è arrivata la voce di questo nuovo progetto di riqualificazione. Consideriamo che ciclicamente si parla di progetti di riqualificazione qua. Abbiamo iniziato a interessarci un pochetto e poi è arrivato il giorno in cui hanno scelto di venire in massa e fare un censimento di Quinto e Sesto Ponte, e lì abbiamo iniziato a farci delle domande se partecipare o meno come occupanti dello squat al censimento, e abbiamo un po' ripercorso quella è la storia, le posizioni che lo squat ha preso in passato. Quindi c'è stato tutto il periodo della delibera dei centri sociali, lo squat ha scelto di posizionarsi da un'altra parte, quella che si rivendicava l'occupazione come pratica, e ovviamente non ha partecipato alla delibera d'assegnazione degli spazi. E quindi però le persone cambiano nel tempo, e che ci siamo detti, che facciamo, partecipiamo o meno al suo censimento, e potrebbe far vedere qualcuno di noi guadagnasse un alloggio dell'ATER. Sono cresciuta con l'idea che, avendo una graduatoria regolare, io avrei avuto una casa. E quando dico io, è un io che comunque comprende anche tutto il quartiere, comprende anche molte altre famiglie. E quindi con la consapevolezza che prima o poi il mio paese comunque mi avrebbe dato quello che mi spetta di diritto. Purtroppo, da quando sono piccola, questa promessa è sempre stata fatta più volte e rimandata. Credevo che quando 3 anni fa, se non sbaglio, ATER ha iniziato questo progetto, credevo che comunque le cose fossero arrivate a una fine e che, diciamo, tutte queste promesse finalmente fossero state rispettate. Purtroppo non è così. In questi mesi ci siamo unite parecchio con le persone che lottano al Quinto Ponte da più di 20 anni. Ci conosciamo da una vita, però poi si trovano, abbiamo anche modalità diverse, punti di vista diversi. Ovviamente si parla di nuclei familiari e noi siamo per lo più compagni e compagne soli, con esigenze differenti ma anche desideri differenti. Eppure un po' lo spirito ha coinciso. Noi ci siamo posti come gruppo d'appoggio alle rivendicazioni di una casa, e quindi sempre al centro c'è stata la rivendicazione dell'occupazione. Quindi il centro sociale, comunemente chiamato così in quartiere, L38 Squat, non si sgombera, vuole restare nel centro del Laurentino 38, ma vogliamo le case per tutte e tutti quanti. Quindi chi vive nelle Serrande da 30 anni è giusto che veda finalmente un vero e proprio tetto sulla testa. Io mi trovo ancora qui e, con questo fantastico retroscena alle mie spalle. Questo è il cantiere che ATER ha deciso di iniziare per la ristrutturazione del Quinto Ponte. Ripeto, ponte dove io sono nata e cresciuta, dove ho investito non solo la mia vita, ma tante situazioni che comunque mi hanno circondata. Dico vita, è proprio vita questo quartiere, per me come per tante altre persone. Iniziando questo progetto, ATER ci ha illuso che comunque il tutto sarebbe andato a un buon fine. E quindi si è unita, diciamo, l'esperienza un po' di lotta, di volontà di alzare la testa, di fare anche casino, dirigendo un po' l'attenzione verso chi è responsabile della situazione in quartiere, con l'intelligenza di chi questo quartiere lo conosce tantissimo, ha delle relazioni vive e sa come articolare delle rivendicazioni. Il problema sta nel fatto che qui ci sono ancora 6 famiglie. 6 famiglie fatte da 6 donne che non hanno ancora ricevuto questo alloggio, che hanno il pieno diritto a questo alloggio. Io faccio parte di queste famiglie, posso dire che comunque è dal 94 che sto qua e ancora non mi hanno dato casa. Non hanno, quelle che mi hanno proposto sono degli alloggi a me e mia madre non regolari. E di conseguenza passare da un irregolare a un altro irregolare credo che sia soltanto una perdita di tempo per noi, per le nostre vite e anche comunque per l'ATER, per i fondi ATER, per il comune. Stanno perdendo del tempo prezioso quando comunque potevano impiegarlo con migliori risorse. Le donne del Quinto Ponte ci hanno dato tantissimi spunti. Sono la memoria storica del quartiere, molto più di noi che siamo un via vai di persone, diciamo. Veniamo da posti differenti, non proprio tutte e tutti, perché c'è qualcuno che è nato e cresciuto ai Ponti. E quindi si è unita un po' ancora più forte la rivendicazione che sembrava un po' retorica, quella dello squat, case per tutte e tutti, lo squat non si tocca, ma si è unita proprio con la protesta di chi voleva finalmente una casa e si è iniziata una relazione quotidiana che ci ha visto un po' parlarci su cosa è meglio fare che acqua agitare. All'inizio non è stata fatta nessuna opposizione, come anche adesso comunque, abbiamo sempre collaborato in modo pacifico, in modo che comunque ci potesse essere una risoluzione da ambe le parti, ma così non è stato. Hanno iniziato a fare ostruzioni prima di tutto bloccando il cantiere, lasciandoci in mezzo alle macerie. E macerie che comunque sono pericolose perché è uno stato di degrado che può scoppiare un incendio da un momento all'altro, ci hanno chiuso le uscite di emergenza. Stiamo facendo la violazione del cantiere ATER. Abbiamo appreso da un articolo di giornale che è fermo per una presunta aggressione denunciata dagli operai ATER. Io ufficialmente ho dato la mia versione anche giornalistica. Per me era fermo nel momento in cui, proprio venendo qui un giorno in cui era presente ATER, c'erano dei geometri, forse qualche amministrativo, i tecnici. Ho denunciato di questa ditta non in regola che smaltiva ferro illecitamente con un bambino all'interno del cantiere. Quindi ne è nato un diverbio. Ti vorrei far affacciare da qua poi. Questi sono i gomoli. Da qua aprivano, facevano entrare i camion, ne possediamo un video. Dalla parte del diritto all'abitare, dalla parte del diritto all'abitare, dalla parte di chi lotta per la dignità, di chi lotta per la casa perché non ce l'ha, dalla parte del diritto all'abitare, dalla parte del diritto all'abitare. Ci vuoti a centinaia, migliaia, decine di migliaia, la brama della rendita fondiaria, grandi capitali, agenti immobiliari, cubature terra aria, speculazione finanziaria. Lo squat in questi mesi ha deciso un po' di fare quello che non ha mai fatto, ovvero invece di fare sai, i tazzebao attacchinati, abbiamo deciso per fare le scritte, abbiamo dedicato un graffito ai nostri compagni e compagne palestinesi, tutte le cose che facevamo in punta di piedi per non disturbare nessuno, adesso hanno assunto un po' un clima differente. Siamo sotto sgombero, abbiamo scelto di fare un concerto al centro del quartiere pirata quest'estate, dove per curiosità si sono aggiunte tante persone di passaggio in quartiere, Tante delle iniziative che prima facevamo nello squat adesso si sono trasferite nel cortile del Sesto Ponte, quindi sotto le finestre di tutte e tutti. E poi abbiamo deciso di fare una street parade per la fine di ottobre, il 27 ottobre. Allora Ader ha iniziato a farci un discorso che ci avrebbero assegnato degli alloggi ma avremmo dovuto pagare delle multe. All'inizio siamo stati tutti d'accordo perché umilmente parlando, essendo proprio famiglie umili, ci andava bene, avevamo stipulato un accordo in base a dei dati precisi. Tutto era stato seguito perfettamente da un coordinamento, non c'erano mai stati problemi. A fronte di 34 famiglie erano rimasti 6 nuclei. Cambio di dirigenza, ultimi 6 nuclei, si è disfatto tutto. Si sono iniziate a trovare mille difficoltà per questi 6 nuclei, tranne che per qualcuno favorito da solite conoscenze dei consiglieri municipali. E invece sono rimaste incastrate 4 donne, di cui una già sta in graduatoria col comune. È rimasta incastrata un'altra donna che tanti anni fa gli risultava, diciamo, di aver preso questo appartamento a Torbella Monaca, ma roba di 20-30 anni fa. Quindi insomma ci si è iniziato a pigliare un po' a tutto, cioè, avevamo 2 anziani, invalido al 100%, e adesso è appoggiato dal figlio, a cui anche a lui è stato dato un appartamento distrutto qui a via Paolo Buzzi, e si è preso a carico questi genitori anziani. Il progetto di riqualificazione che dovrebbe riguardare Quinto e Sesto Ponte, almeno sulla carta, è davvero qualcosa di inverosimile. Innanzitutto riguarderebbe le stesse cubature Quinto e Sesto Ponte che sono già attraversate da un altro progetto che riguarda e finanziato anche, che dovrebbe riguardare spazi per realtà sociali, associative, culturali all'interno del quartiere. Quindi un progetto che coincide con il progetto originario che riguardava il quartiere, e invece questo nuovo finanziato da Ater e Regione ci parla di alloggi che verrebbero ricostruiti, tra l'altro in cubature non a norma, dove proprio i soffitti, ma neanche anche la questione del gesso e di tante altre questioni tecniche non sarebbero a norma, ma quindi alloggi costruiti lì con in alcuni casi una questione di studentato che dovrebbe comparire all'interno del quartiere, un quartiere con una dispersione scolastica altissima, e con progetti di co-housing per single e coppie che dovrebbero vedere anche biblioteca. A noi è parso davvero incredibile come qualche giovane architetto abbia spulciato molto bene il grande lavoro fatto di documentazione di 32 anni di L38 Squat, dove si è fatto davvero un osservatorio sul quartiere e si è particolarmente ricostruito qual è stata le trasformazioni del Sesto Ponte grazie agli occupanti e alle occupanti, dove effettivamente si parla di una biblioteca già esistente, dove si parla di una palestra autocostruita e dove si parla di alloggi che oggi chiamano co-housing, ma è il nostro modo di vivere libero e insieme. Quindi in tutto questo caos e cortocircuito e gestione scellerata restano incastrate ancora delle persone che non vogliono essere prese in considerazione, ma ci sono reali, sono effettive, hanno trovato riparo là dove gli stabili erano stati lasciati all'incuria. Lo stesso è accaduto per 30 anni e per 30 anni si sono susseguite tantissime giunte comunali, regionali, vari politici, vari amministratori ad affacciarsi al proprio momento di gloria, ma tutto qui è rimasto sempre lo stesso. E quindi non c'è stata, diciamo, mai la crescita, e per 30 anni la cura di questo quartiere è avvenuta soltanto esclusivamente ad opera delle persone che lo hanno vissuto, questo stabile. E quindi alla fine è uscito fuori questo progetto di riqualificazione con questi appartamenti, ma questa riqualificazione, la delibera prevede che la paghino le persone che vivevano all'interno degli stabili, che quindi li hanno mantenuti in vita per 30 anni, ma multe salatissime, multe da 10.000 euro, 15.000 euro, che disattendono assolutamente le aspettative e gli accordi che erano stati presi inizialmente con Ater, con questa direzione capitanata da Andrea Napoletano e dalla dottoressa Michela Pace. Questa riqualificazione che paghiamo noi è diventata a tutti gli effetti una demolizione che non hanno voluto pagare loro. Da tempo L38 Squat è impegnato nella scrittura di un progetto con ingegneri, architetti, compagni e compagne per raggiungere l'autonomia energetica. Siamo anche prossimi a lanciare un crowdfunding perché abbiamo bisogno di reale sostegno, purtroppo anche economico, però abbiamo intenzione proprio di mettere mano a tutta la struttura ponte per renderla autosufficiente dal punto di vista di acqua e energia elettrica. Lo stiamo facendo cercando di mantenere un'etica molto, molto alta, non ci va di rinunciare a nulla. Nel tempo abbiamo fatto un lavoro che è stato in grado di abbattere la dispersione e tantissimi consumi interni al posto, scegliendo sia materiali sia una tecnologia diversa. Però adesso vogliamo fare un passo in più e ci sembra anche un esempio che si potrebbe applicare all'intero quartiere. Noi come occupazione sono 32 anni che ci prendiamo cura dell'intera struttura ponte, e così come l'hanno fatto gli occupanti e le occupanti del quinto ponte, altrimenti sarebbero delle macerie, delle cose che davvero cade a pezzi oggi il quinto ponte grazie al progetto di riqualificazione. Più volte, come stavo dicendo, abbiamo provato a scendere a compromessi pacifici con Ater, con chi comunque faceva le veci e con dei rappresentanti. Sono venuti qui tramite un comitato delle occupazioni, un comitato che gli ha aperto le porte a 365 gradi, li abbiamo fatti entrare nelle nostre case, gli abbiamo dato il benvenuto, sempre con le loro promesse che tranquilli avrete le vostre case, tranquilli avrete quello che vi spetta di diritto. Tranquilli purtroppo non è stato, perché come già ho detto non vorrei essere ripetitiva, ma questo è un argomento che mi preme particolarmente perché dopo che abbiamo ognuno delle nostre famiglie ha fatto questi colloqui con Ater, si è ritrovato comunque delle persone molto ostili, molte volte ostili in maniera anche prepotente, una prepotenza che nessuno di noi si meritava. Semplicemente noi volevamo quello che ci spetta di diritto, la casa. Parlandovi del mio, posso dire che a me e a mia madre hanno assegnato un alloggio dove c'è solo una camera da letto, una piccola zona cucina, e secondo loro la loro risposta è stata che era quello che ci spettava di diritto, che noi e mia madre dovevamo dormire insieme. Purtroppo non funzionano così le cose. Il nostro diritto non è quello di sopravvivere, ma di avere una vita dignitosa. Il Laurentino 38 si trova ad essere un corridoio da un centro commerciale all'altro, ovvero c'è il centro commerciale Euroma 2 e il centro commerciale Massimo. La promessa di costruzione di centri commerciali per ampliare i servizi all'interno del quartiere in realtà sta risultando l'opposto, ovvero tutti gli esercizi commerciali stanno via via chiudendo, i servizi sono sempre più ridotti, le persone vanno o a lavorare nei centri commerciali con paghe basse o con le cooperative che si occupano delle pulizie dei centri commerciali, o via via, cioè, si ritrovano sempre di più disoccupate, perché chi aveva una piccola attività qua non ha più senso desistere se abbiamo dei poli commerciali giganteschi a tutte e due le estremità del quartiere. Il Laurentino 38 si trova sempre di più ad essere fuori posto. Siamo nello stesso municipio dell'Eur, un Eur che si sta espandendo, sta diventando quasi un nuovo centro di Roma, e poi abbiamo nuovi quartieri come Selcetta, tutto quello che sta sorgendo intorno al campus biomedico, con una nuova popolazione anche di studenti, ma anche di monolocali, di persone diverse che vengono a popolare questa parte di città, e con di fatto chi vive qua che è sempre più costretto a spostarsi fuori la città. Il Laurentino quindi è accerchiato da una città in espansione che spinge chi non può permettersela a vivere fuori. Stiamo puntando i piedi per non far trasformare interamente il quartiere, un quartiere che ha una natura resistente, cioè dove c'è un buco si rigenera di nuovo la stessa vita. Quindi anche lo scheletro del Quinto Ponte si sta ritrasformando in occupazione, o i luoghi disabitati del Sesto Ponte sono diventati luoghi di vita delle persone espulse dal Quinto Ponte. In questo modo si sta generando una resistenza naturale, e noi siamo qui al Sesto Ponte, noi dello squat, con zero intenzioni di muoverci, perché fuori da questo quartiere non avrebbe senso rioccupare un posto. Potremmo anche farlo, un casale, stiamo crescendo, nel frattempo abbiamo anche delle vite più difficili che meriterebbero anche di vivere meglio fuori dalla città, ma il senso di esistere come gruppo di persone che si vogliono attivare nella solidarietà e nella lotta è quello di rimanere al centro del quartiere. Non è solo vive sospesi, questi 3 anni non siamo solo vissuti nell'incertezza, veramente nel non sapere, proprio per come è fatto il quartiere. Non si può pensare di mettere in vendita questi alloggi per farne poi dei B&B, perché alletta il fatto che siano vicino a una zona come l'Euro. Si vorrebbe trasformare questo quartiere in un quartiere residenziale, ma è un quartiere che è nato per essere un quartiere vissuto, è un quartiere popolare e popoloso. Non si può snaturare. Ci sono decine e decine di appartamenti chiusi e tenuti bloccati dal progetto housing, che anche questo a distanza di 3 anni si può ben dichiarare fallimentare, e se ne vedono gli effetti. Questi appartamenti si sarebbero potuti utilizzare per il rimpiazzo e una nuova prospettiva di vita per le famiglie che lo hanno abitato per tanti anni, consapevoli di abitare un posto difficile ma così sentito da non volerlo abbandonare. Ecco, questa è un'occasione che è stata data solo a poche persone, quello di poter riabitare gli appartamenti vuoti siti a Laurentino, ma ce ne sono veramente tantissimi. Sono chiusi, c'è un grosso danno erariale, perché si sarebbero potuti utilizzare, sistemare e sfruttare per ridare quella partecipazione sociale che abbiamo continuato a mantenere nonostante le difficoltà. Se c'è sempre voglia di punire e mai di comprendere in questi quartieri, e quindi poi alla fine sempre più persone iniziano a farne le spese, ma persone che restano coinvolte dal sistema pur non volendo appartenere ad un sistema illegale. Non è possibile che le fragilità diventino motivo di esclusione sociale. Non è possibile scappare dalle violenze domestiche, essere fragili perché si è anziani o avere anche delle debolezze di dipendenza, e invece dover essere costretti adesso a un passo che ci viene imposto in questo momento e che noi non riusciamo a tenere, nemmeno se lo volessimo con tutto il cuore. Se no non ha senso poi inaugurare una panchina al primo ponte al municipio contro la violenza sulle donne, quando le donne in questa circostanza e sotto gli occhi del municipio non vengono nemmeno ascoltate, non si vogliono ascoltare o vengono comunque trattate come capricciose. Diciamo che questo viene interpretato dal nostro municipio come un voluto capriccio.